prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Con lo scorso 28 febbraio si è chiusa la cosiddetta emergenza profughi della primavera araba. Ricorderete tutti cosa successe appunto tra il gennaio e l'aprile del 2011, gli sconvolgimenti politici, sollevazioni popolari in Egitto prima, poi in Tunisia, in Libia, la fase bellica successiva anche che ne è seguita, la caduta del regime di Gheddafi. Tutto questo è appunto fenomeno definito primavera araba, con tantissime vittime sul campo e vittime che poi sono state costrette ad uscire dai paesi del Nord Africa, la Libia in particolare, dove non c'erano solo libici, ma c'erano tantissime persone di altri paesi dell'Africa che lì lavoravano appunto come specialisti, tecnici, laureati, diplomati, e si sono trovati appunto a non poter tornare indietro perché nei loro paesi magari c'erano ulteriori situazioni belliche e si sono trovati a essere imbarcati spesso anche contro la propria volontà, da come si è capito poi dalle storie successive, imbarcati verso l'Europa, e il primo approdo evidentemente è l'Italia, l'isola di Lampedusa, che è stata al centro, fu al centro per settimane del fenomeno appunto degli ammassamenti e poi degli smistamenti delle persone accolti con lo status di profughi dal nostro paese innanzitutto, che a dire la verità anche a 2 anni di distanza fu lasciato un po' solo dall'Europa in quella situazione. Molti profughi poi in realtà non avevano intenzione di fermarsi in Italia, ma magari di raggiungere parenti che già si trovavano all'estero, nell'Europa centrale in particolare, Francia e Germania innanzitutto, ma poi siamo stati noi i primi appunto a subire nelle conseguenze, a dover organizzare l'accoglienza fatta certamente tramite le strutture dello Stato, ma anche e soprattutto grazie alle strutture della Caritas italiana, che è intervenuta lì sul posto, e poi tramite le diocesi e le comunità anche parrocchiali e vicariali ha accolto queste persone per alcuni mesi in alcuni casi, e fino al 28 febbraio almeno in forma ufficiale. Questa emergenza si è chiusa, sentiamo i numeri e anche poi l'evoluzione in questi primi giorni di marzo della situazione col direttore della Caritas di Treviso, Don Davide Schiavon. Ecco, la Caritas ha accolto 38 profughi e attualmente, ecco, alla chiusura, ecco, ne sono rimasti 12, 9 persone che vivono, ecco, in un piano di accoglienza, e più una famiglia, ecco, di 3 persone, papà, mamma e bambina. Questi 2 anni, ecco, queste persone che sono state accolte, ecco, hanno fatto un percorso, ecco, di riabilitazione, nel senso che non possiamo non tenere conto che il trauma, ecco, che hanno subito sia con la guerra sia con l'attraversamento del Mar Mediterraneo è stato molto pesante, e dopodiché, ecco, una volta un po' rasserenata anche il loro stato d'animo, hanno potuto intraprendere percorsi scolastici, percorsi anche di attivazione un po' professionale, per cui, ecco, all'interno della Caritas si è cercato di elaborare un percorso individualizzato per ciascuno che garantisse, ecco, lo stato di salute, di autonomia e la capacità anche di potersi inserire, per quanto i tempi sono difficili, nel mondo del lavoro. Come dicevo prima, 26 di queste persone hanno trovato una collocazione, alcune, ecco, sono andate all'estero, le altre sono rimaste nel territorio, si sono organizzate trovando, ecco, delle occupazioni lavorative, e come alloggio, qualcuno andando a vivere presso degli amici che erano già residenti nel territorio nazionale, oppure, ecco, qualcuno si è messo insieme e ha dato vita proprio a un percorso, ecco, di autonomia molto interessante e molto bello. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Ricordiamo che la Caritas di Treviso, proprio sulle storie di questi profughi accolti nella Casa della Carità, ha pubblicato recentemente un testo, un volume fotografico, ma anche di testi, Di qua del mare. Il testo è disponibile negli uffici della Caritas di Treviso. Ci sono le testimonianze, le storie appunto dei profughi, ma anche quelle degli operatori, dei volontari che con loro hanno condiviso alcuni momenti di questi due anni, che o quasi due anni, insomma, sono arrivati all'inizio di maggio del 2011. Come abbiamo sentito, molti hanno trovato sistemazione, qualcuno invece rimane ancora qui, o anche se in forma, in uno status diverso. Ancora con Don Davide sentiamo appunto un bilancio anche personale e da parte della Caritas di questi due anni di presenza di queste persone tra di noi. Ecco, in merito a questo credo si possa fare una distinzione. Da una parte, ecco, l'esperienza che noi abbiamo vissuto è stata un'esperienza molto accogliente, ecco, molto anche da un certo punto di vista arricchente, ecco, nel senso che l'incontro con queste persone ci ha aperto il cuore e la mente, ci ha donato di vivere esperienze molto belle, ecco, di crescita insieme, di volontariato, ecco, che ha dimostrato una bella natura, ecco, nel nostro territorio, e quindi da questo punto di vista qui certamente è, ecco, un'esperienza che va valorizzata. Ecco, dal punto di vista proprio invece più generale dell'accoglienza, così come è stata anche vissuta e io direi delegata, ecco, dal governo alle varie istituzioni, ecco, ci sono dei punti di domanda che restano molto, molto forti, ecco, nel senso che manca, ecco, una progettualità per queste situazioni che possono verificarsi soprattutto nei contesti attuali da un giorno all'altro. Ecco, tante volte queste persone sono state un po' parcheggiate e diciamo solo in alcuni momenti topici, quali la chiusura dell'emergenza, che poi appunto ha avuto questa proroga di due mesi, ecco, gli enti costituiti si sono un po' fatti vivi, ecco, no? Ma al di là di questo, ecco, credo che dobbiamo tenere in considerazione che queste persone nel loro progetto di vita non avevano, ecco, in mente di venire in Italia, ecco, perché godevano di una tranquillità economica dove erano in Libia col lavoro che avevano, pur con altre difficoltà che incontravano. E certamente, ecco, la guerra è un evento che ha sconvolto la loro esistenza. Sono arrivati qui, ecco, e diciamo noi abbiamo avuto la fortuna, con tantissime persone che ci hanno aiutato, di poter elaborare dei percorsi individualizzati che hanno portato a questa autonomia. In altre realtà non è stato così, e ad oggi che si è chiusa l'accoglienza da parte del governo, restano delle problematiche sul territorio non indifferenti. Formalmente, come detto, l'emergenza profughi è stata dichiarata conclusa dal governo italiano, lo doveva essere il 31 dicembre, poi c'è stata una proroga di 60 giorni che di fatto però ha cambiato sostanzialmente nulla nel loro status e nel loro futuro. Chi aveva già trovato una sistemazione era già comunque a posto, tra virgolette. Il problema evidentemente sono tutti gli altri, sono comunque una percentuale significativa, ma in tutti i casi ancora a Don Davide chiediamo se questa emergenza può dirsi conclusa. Ma credo di no, ecco, credo che la questione è proprio questa, ecco, le persone non possono essere parcheggiate, ecco, non possono poi aspettare tempi enormi per avere, come è stato in questo caso, una chiarezza del loro status giuridico. Ecco, credo che ci voglia veramente una inversione di marcia nel rispetto della dignità delle persone, ma poi anche dire concretamente, con questa difficoltà che ci sono, come vanno e possono inserirsi nel territorio, che prospettive ci sono. Ci sono prospettive di difficoltà anche per le persone locali, come allora cerchiamo di fare un ragionamento più serio, più profondo a 360 gradi, ecco, perché altrimenti i problemi si rimbalzano da una parte all'altra e si rischia di cadere in quella guerra dei poveri, ecco, dove dinanzi alle poche risorse si sbrana, ecco, per potersene accaparrare qualcuna. Ricordiamo il sito caritastarvisina.it, dove trovare i riferimenti anche per chiedere una copia della pubblicazione Di qua del mare, con le storie proprio di questi profughi accolti a Treviso nella Casa della Carità, e anche tutte le modalità per contribuire per questa emergenza, abbiamo capito che lo è ancora, ma anche per tutte le altre che di giorno in giorno si presentano alle nostre porte. Thank you. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.